con un sottile da 5, mi sembra che sia, ma se non mi ricordo. Ma quanto bella di 0, la bombola da 50 grammi mi sembra, 30 grammi. Infatti se c'è quella prima, certo, se ne avessimo altre. Anzi, devo vendere una, forse come quella c'è in alto, una Sirio. Questo senza la basetta per attaccare la diaria, e non è attacco la diaria, a culo mi attacco. Se facciamo lo sconto poi ci mancano questa cosa, ma no, la sapete. Ho mandato da Fusare, ho preso questa Ringo, che 5,80, 4,20 metri alta, va bene, non ingombrante, tutta in alluminio, ripiazziamo quella lì. Avanti, e Mauro, riprendi, oggi a riposo, sì. sì. No, rispondo da Domenico, che abbia Saturno. Ma sempre cosa lo fai? Che entri? Sto facendo 5-11. Come andare? Sono buttato la bimba. Va bene, dal 5-11, cioè, sono fatto 5-11, sono proprio per il capito che si è andato. Oh, mi ha copiato così. E orgoglia. Ah, vabbè. Ma anche io c'ho il BP, no? No. Non c'è il BP. No, BP non ce n'è. Aspetta che lo puoi io ora. Tanto c'è di tutti un baracchino. Allora, la stazione di Murlago, la stazione base, o a Fattigiollo, mi faccio la calamita, no? Che mi... Allora ti giro, c'ho problemi. Oh, io gliel'ho fatto ascoltare questo, non carie. Esatto, c'era appena tolto qua, sento sblatter. Eh beh, c'è gente, c'è gente. C'è gente nel 2-1, ti ammazzano con quello a te. Io manco un bello, intendo con la chi. No, vabbè, lui in barca, guarda, metto questa posizione, non ne sento più. Vai lui, fa sentire il tuo barracchino, vai. E quella aspetta mattina. Ma io passo la calamita a Gigi, poi la passo io là. Gabba gabba. Aspetta a vedere. Se è così. Oh Luca Rie, questo è il brutto di Maestrale. Che l'ha mandato a fare però sul continente. Cazzo, micidiale. Siciliana, lo sai, oh Claudio, non mi raccolto di una cosa. Chiudendo tutti con la monopola, tutti i matti, mi dà importante bianca due matti. Monolatti 18, girando tutta la monopola mi dà importante bianca 19 matti e monolatti quasi 70. Infatti mi sono accorto che... Praticamente sì, 9, quasi 9.25, di solito sì, 9.20, e invece adesso sì, 9.25. Ok, questa invece è l'importante bianca da 15 watt. L'importante modulata 30 watt è positivo, dai. Dico una cosa, questo l'ha fatto Luca, l'ha fatto Sabattino, quello che fa costruisce antenne, quello che c'è, non so neanche se è in zona di Napoli, non so neanche dove sia, l'ha mandato lì Palmirio. Tu dimmi come ci dà l'eco, cambio. Ma facciamo funzionare anche gli elicotteri. Ogni tanto bisogna far funzionare anche gli elicotteri. Ora, va bene, funziona sempre sta radiolina, Gigi. Funziona sempre, anche quando rimane ferma. È positivo. Guarda che oggi ho trovato, ce n'era uno, l'ho preso di quei microfoni ieri, quella si punte, Falché. L'ho comprato oggi a Marrubio e l'ho preso uno di quei microfoni si punte. Ah, che ha pagato. Va bene, va bene. Me l'ho preciso al mio, dai, il gemello l'ho preso, l'ho comprato. Che appaloccio. Sono un attimo di tempo libero, scendo. Positivo, così quello è diretto, non sai, ne ha adattato e è pronto, c'è il cavo bello morbido e poi ne hai già un altro tu, dai. C'è il cavo morbido morbido che allunga parecchio pure. È positivo, positivo. Questo non è il mio, Claudio, è di Palmirio, questo era il mio, l'ho comprato io, però ho fatto scambio con Palmirio con un'altra cosa e io gli ho dato questo qua e lui se l'ha mandato a farlo modificare, capito? Eia, l'ho sentito nel canale 5 oggi, non mi stava neanche riconoscendo. L'ho salutato, mi ha detto no, non può essere. Claudio Sparagliero, ecco, come i vecchi tempi, era giurito. Quando trattavo di fare chi non lo ecco io ancora, niente, io avevo un buco dira, non so bene manco se voglio arrivare a chi non lo ecco. Oia, oia, avanti Mauro. Oh, perché? Ma sai dove con 200 euro quello tu non fai gemello di questo? Non manderà questo sabattino su, non so se è di Napoli, tramite Palmirio, questo te lo fa gemello di questo qua e perché? È il tuo. Gemello, gemello, cambio. Lo so. Momentaneamente bisogna lasciare le cose come stanno. Non si potete, non si potete. È positivo, dai. Ma serve, allora sai cosa è? Però funziona pure quando tu gli ecco e le stacchi ecco questa cosa e va ti arriva lo stesso e non c'è niente da fare. Ecco, non ecco qua, va lo stesso, È positivo, positivo. Sì, si sente molto spinta la radio, ma si sente. Adesso, poi adesso le passiamo questo a Falchetto, almeno la mattina vi fa compagnia o lecca. È positivo, dai, tanto noi ce l'abbiamo. E ci aveva pelino, ma legavo puro che c'è il triascio di pit. E a me ci fa, ci abbiamo tutti noi la mattina, ecco, capito? Allora, così parlando, te la fai leccando. Caparrogero. Questo me lo guardate insieme con quel rapinato, con quel microfono rosso, come si chiama, l'Esa Delta, così si chiama, questo baracchino qua rapinato con quel microfono lì. Ehi, sì, ma è roba di tanti anni fa, vai, che aveva praticamente, non mi ricordo dove l'aveva preso, però già funzionava bene, non c'è problema. Ok, avanti lo Gabriello. Ma certo, attenzione, metto un attimo lui. Eh beh sì, siamo 23 del 75, certo che ce l'ha. Ce l'ha e anche il canale ce dici. Sì, il brutto, non sai com'è il brutto. È come l'8001 più o meno. Come c'è il frequenzimetro, frequenziometro, come te lo chiama? Ehi, ehi, ehi. Potenziometro. Ci bloccano potenziometro, ci bloccano potenziometro. E capito, è tipo un type, ormai, lì, più o meno. Radio compreso. Ma io mi assento 10 minuti, 20 minuti, 2, quello che è. Qualcosa lo puoi mangiare per forza, eh? E quindi tu, Arturo, Fagiere, c'è anche Mauro. Vabbè, Mauro non ti sente. Faccio ripetere a Luigi, fai tu, vai lui. Mi assento 10 minuti, massimo 20. Positivo, dai, Lucaria, se tu ti assenti 10 minuti, massimo 20, io già inizio a salutarti, perché io non mi trattengo... Sai che io sono velocissimo, passo dal ventolante menando. No, mi trattengo, me ne vado su e guardo appena appena in televisione, poi mi incurico che mi sta guardando molto presto, sperando che cambia l'orario. Mi pare lei cambia domani l'orario, vero Claudio? Hanno detto, mi pare il 2, boh, il 2 al 3, adesso non mi ricordo esattamente. Ok, poi mi dice al passaggio lui se la regolazione è rimasta quella che abbiamo fatto di questa radio. Vediamo un po' se mi sente Mauro. Attento Mauro. Non lo sento più io Mauro. Non so dove sia andato, se sta mangiando o se sta dormendo. Riprendi Antonio. Positivo, senz'altro sarà mangiando, Mauro, sarà mangiando senz'altro. Lui, mamma mia, andare a mangiare, capparocci. Ehi, anche lui lo stesso, sacrifici alle 4 del mattino, vediamo, dopo, che si può fare, che si può fare. Sei positivo, tu lo sai, dai, che ci fa compagnia la mattina. Un sacrificio lo fai pure tu la mattina. A me manco di maviglia. Mi deve ne pagare per pensarmi di ghizzo. Allora, a me fa piacere, Gigi. Fa piacere ascoltare la mattina, farle compagnia, fa molto piacere, no? Se non mi avrebbe fatto piacere non sarei neanche entrato. Beh, è positivo, ormai è una cosa che puoi mettere in Giappone che va. C'è sempre il blocchetto e fa il verbale, se no ti sente la mattina, subito segna e fa il verbaluccio, lì ci mette poco, in gamba ci può, comunque è diventato dipendente adesso da 5-6 mesi a questa parte, l'ha detto, dai. Non è più niente lui, dipendente adesso. Positivo. Ho sentito che non è più padroncino ma dipendente. E vabbè, cosa vuoi fare? Troppi soldi magari per essere padroncino ci vuole, vai. Positivo, e poi il conto infatti non gli rimanevano 50 euro al giorno puliti in tasca, capito? Non gli rimanevano 50 euro puliti, altrimenti che stava. Che era costretto a viaggiare. Che cosa ti eravate tu? E se poi c'è qualche danno, qualche guasto, se aveva qualche problema, gli rimanevano 50 euro puliti a conti fatti. E cosa fai tu? Cioè, pagandosi il gasolio, tutte le spese, tutto quanto, aveva una mira di 50 euro. Certo, tutte le spese lo manzano, tutte le manzane, erano 4, già lo senti tu. E non manca mai, meno si ammala mai, manca i soggianti, e per tutte le manzane. E fa 50 euro solamente, ma la lascia aperte. Infatti, no, poverino, ma gli ha fatto bene a mettersi sotto che si fa. Ha fatto benissimo, almeno qualche cosina li rimane in tasca, se non altro. Eh sì, ma gli ha dato un repondo, una cosa, mi pare, va la favolta. Io gioco, una cosa, se no deve essere pure se il motore nuovo, le panni pompa della sponda idraulica e tante cose, sempre problemini e niente, dai. Sì, infatti, infatti. E così, no, ma fatto bene, si è messo a conto di qualche ditta, di qualche principale, almeno quello che si va e mi è pulito, non... se si guasta il metro, se si arrangia anticipare e via dicendo, sono cose più docco, va benissimo così. Non lo so come sia comunque, perché la macchina gliel'ha presa da lui, però non lo so, o non riusciva a pagarla, non so neanche io come la terma da qualche don altro, non so come sia messo, comunque lui è dipendente, è dipendente. Va bene, io magari avrò tutto i suoi alti e bassi, ma non ce la fa magari a pagare e niente, non so come sia andata le cose, ma comunque l'importante è che si sia messo dipendente, così ci ha più guadagno, diciamo, è positivo, positivo, se prima arriva via 50 euro, non so quanto ne avrà 70, non so quanto ne avrà, però almeno gli rimangono. È sicuro che quello che guadagna è pulito, quello che si ritira al mese è pulito, non deve guadagnare a gasolio, a quello e quell'altro, capito? E poi quando è innalzata non tirano in cassa e si fanno consumare a gasolio, e allora vedi, prima lo pagava la ma non lo pagava e non lo gasolio. Allora, va a tira allora. non è che tira, è sempre piano piano, però non lo so come... prima lo facevano cosa ma Gasulia, ma non lo so come lo sono fatti. Gappa gappa. Già va bene, tanto è una cosa c'è ne. Quello che lasci è perduto, Gigi. È meglio sia messo a conto di qualche vita, almeno si leva un po' i grattacappi, diciamo, dai. Beh, positivo, dorme più tranquillo la notte. Positivo, positivo. Lei premi grandi. Aia. Beh, così, Non c'è niente da fare, no? Purtroppo, quando ho l'azienda sua, ci sono sempre le spese, le cose, tutto da comprare e da fare. Diciamo sì, alle dipendenze, fai il tuo lavoro e quando hai finito di farlo te ne vai a casa, non stai lì a romperti le palle pensando che domani delle 100 euro che hai guadagnato ne devi spendere 80 per fare la riparazione, tutto lì. Erano altri tempi, lui lo sa, perché quando io avevo i miei mezzi anche lui ce l'aveva, però erano altri tempi dove si lavorava ma si guadagnava anche qualcosa in più. Oggi un cazzo di euro non si riesce neanche a arrivare a fine mese, se uno poco a poco ha dei problemi, se uno non ha tira a campare, però grande difficoltà per tutti quelli che lavorano in proprio, grande difficoltà. Ok, vediamo, ultima chiamata per Mauro, attento Mauro. E avanti. Ah ecco, così rimanendi o passando ancora chi sul cavo, ma passato è quel cavo? No, quel cavo non l'ho passato perché sono già sistemato e pulito la macchina. Ah, ho capito. Ho capito, va bene, d'accordo. Quindi Anton, volevi sapere se Mauro ha passato il cavo, l'ha abbandonato in diera, perché c'è da smontare quella roba là e quindi bisogna farlo di giorno e bisogna farlo con più persone, dai. Lo vediamo dopo, ma quello adesso tienilo così, non c'è problema. Avanti Antonio. bene, infatti lì ci avrà un buco, ho fatto un buco nuovo, ho fatto passare sopra la fuggibile e è entrato direttamente lì, capito? Infatti in poche parole ci vanno due furi, uno dall'esterno e uno dall'interno, si passa il cavo ed è tutto ok. La gappa, è un peccato veramente, non ascoltate Mauro, è un peccato veramente, ma mette le pecorelle, ma già sistemiamo tutto là, sistemiamo tutto. Oh Mauro, ma tu dove sei, ai punti sei, perché io ascolto Mauro, o ti sei spostato da dove di prima? No, non ci abito più da quello di prima, sono dietro alla falegnameria. La falegnameria, ma dove? Alle punti ti hanno parlato? La Paderrotia, Pirino, falegnameria Pirino, a spalle. Ma adesso come te ne è Pirino? Ci sto pensando. La 131, a spalle, dove c'è Tepa, dietro Tepa. Ah, quella falegnameria, ho capito, dai, sono entrato in un articolato dentro, mi pareva falegnameria, dovete essere cagato, non me la metto, dopo mi sono infilato la delle mafre in chili. Ho capito. Ah, la via di quella via che scende, no, non se, mi pare che sale quella via, non scende, a senso unico, a salire mi pare, giusto? Scappa di rompere, comunque tu se vedi Tepa, io sono dietro a Tepa risulto. Scappa, già lì c'è due appartamenti, la moglie di sì, ce l'hai dove lavoro io, c'è due appartamenti lì, mi pare ce l'ha affittati. Ecco, non lo so, io, questo qua era un falegname, questo qua non si chiama. Ho capito, ma è la presa in affitto lì o come? Me la legge in affitto tra uno o due anni me la ricompro più grande. Ah, ho capito. E già va bene. Tanto dove è palazzina, cos'è? E tre piani. Positivo. E anche quelle cose dove c'erano c'è Sergio a tre piani, sono... C'è un cancello, entri dentro, ci sono le scale a salire su, e vai su, e sono tre piani quelli lì stessi, piano terra e più due piani sopra. Sì, questo più o meno. Beh, positivo, non è mai parcheggio anche io. No, invece si trova tranquillamente il parcheggio. Ah, c'è il parcheggio. Sì, si trova, bene o male, se non in questa via, c'è la terra appena dietro, si trova tranquillamente. È positivo. Già, va bene, dai, c'è la posta vicina, cosa vuoi di più? E allora, c'è la posta vicina, paga i buffi. Ehi, c'è quella, dove? Stavo invertendo la radio. Dai. Oh, che ce l'ha, no, era arrivata mia nipote. Io non sapevo, Antonello, il socio di Mauro, che non sappiamo quanto che non c'erano. E per salutarlo che è arrivato nuovamente, Claudia, fatemelo di bianco. Io stavo invertendo la commutazione della radio perché con questo ecco ho fatto un casino di giudizio, non ve la giusto per fare sempre una prova. Avanti, Anto, cazzo, non intendo nulla, la rottura di palla, lo so, infatti stavo dicendo che si sistema, no? Cambieremo l'antenna, vedrai che è tutta un'altra minestra. Io penso proprio di sì. Ma tranquillo che già sistemiamo tutto, non c'è problema. Mi hanno già preso e lo mettiamo in condizione di uscire come cristiano. Non c'è problema. Poi la prossima volta, ma adesso le hai comprato anche troppa roba. Da Fusaro compriamo le MB più 4, ti faccio le connessioni. dimensioni e luci come l'MS-200. Hai capito? E te ne ha dato il padre, ma non è che ti dice che aiuto. Thank you. quindi vediamo se ci libera Antonio, facciamo quello che abbiamo detto, se Antonio non ci libera ce la tiriamo lunedì, capito? Ce la tiriamo lunedì, perché poi il martedì non ci siamo, che siamo a Cagliari, capito? Quindi faremo come abbiamo fatto l'altro giorno, aspetto Antonio che esca da Trabacco, domani lo facciamo un salto. Beh, ci aggiorniamo domani comunque, ci aggiorniamo domani. Ok, Anto? Sì, se io non ho altri impegni per domenica, ci aggiorniamo domani, così diamo la conferma anche a Mauro. Un trappano buono, mi raccomando, se vuole un trappano elettrico, non un trappano così a batteria, trappano elettrico buono, se va, se fanno due furi, si piazza il palo, si piazza il bene, tutto ok. K. Sì, anche lui c'è un trappano buono, ma in alternativa porto anche il mio, non si sa mai, che il mio era di quelli a percussione, e non ci sono problemi. Si porta la punta piccola, porto le punte piccole e poi usiamo quella grande da 8. Non c'è problema. Va bene, ok. Se vuoi dire però un'altra cosa, me ne gioco dimenticato, non me la metto più giù. Niente, va bene. Quello è messo al centro. Quando è venuti Mauro, quanto la parte metterò quanti batterà? Ah, piattandogli il coso, no, smetterò. Piattando il battere, possiamo lasciarlo stare, lo facciamo assieme. Voglio vedere quanti batterà. Perché mi pare che chi tra l'altro aveva chiuso di watt, perché usava un piccolo amplificatore. Ok. Se dovesse essere così, lo riportiamo una normalità, quello deve andare 15 watt con la radio. Può darsi di sì, perché è grande, penso che verrà sicuramente. Comunque, per quanto riguarda il trapano, io ce l'ho il grande, non c'è bisogno di robusti, perché c'è un grande trasferatore. Cazzo di quanto non c'è una mezza sega come quella vacca? No, ce l'ho grande, io quello lì non l'ho portato su, però le ho le punte piccole, ce l'ho le punte grandi, quella che... Tutto, non c'è problema per questo, capito? Non c'è problema. Vabbè, ok, ma no, se non c'è problema, ce le trattano quello grande, con le punte piccole e le punte grandi, perché questo c'è. Se viene Antonio, passa dall'altra parte come ha fatto l'altro giorno e fa il volo. Un secondo, datemi un minuto solo, mi sta chiamando mia figlia. K. Non ho tirato le file perché non c'era audio nella 5, nella nuova emittente lì, invece c'era il mute, capirò grido, ha fatto vedere dei giorni giorno il mute, chiaro non c'era audio. Impegni domenica, ci scendiamo domenica mattina, glielo facciamo, così piazza la signora antenna e non se ne parla più. No, facciamo tutto, non c'è problema. Facciamo tutto. No, almeno si finisce bene col lavoro, se no, non è tu il palle. Stai trotta. No, serve, è fastidioso che si piazza una cosa e poi non si riesce a ascoltare. Che quanto mi ha dato fastidio qua. Che lo sapeva tu, che lo sapeva. Anche io, mamma, quando abbiamo fatto la prova, che io ho fatto mentre io stamattina cercando di passare quel cavo, io ho visto che ho preparato il piede e ho fatto la prova. Ho chiamato, Luca mi ha risposto, sentiamo nome. città, va benissimo, una cannonata. Poi ho visto la recezione, che era buona, tutto buono. Dico, già, ti preoccupi. Vai tu a capire come mai da lì tu non riesci a sentirlo, lui non riesce a sentire a te. Che te devo dire? Quello è qualche problema proprio di... Chiaramente ci fa delle matesi cose con la antenna. Non penso proprio, no. Con l'altra mare che vada un pochettino lo devo sentire. Un'altra antenna superiore sicuramente, però speriamo che non ci siano grossi problemi, non lo so. Vabbè, io comunque chiudo perché sono a pezzi, ragazzi. Sono stato alle 3 del mattino oggi e mani mosso, un po' a coricarmi e niente, quindi vi saluto, sono già alle 10 quasi, domani mi lottare presto lo stesso. Ma se vi stai ascoltando, prima da salutare anche Antonio, ci aggiorniamo domani. Capito, ci aggiorniamo domani e poi così ti scendo anche con la tua roba e va bene così, ok? Dammi conferma e poi passo il microfono a Antonio, se no mi sovramo durante. E ok, va bene. No, va bene, lo sai così, dimmi perciò che ora ti chiamo, perché io domani sera devo andare a Portigliano, sono un battissimo, quindi mi devi dire perciò che ora chiamarti, che così ci mettiamo d'accordo. Guarda, io non aspetto la risposta di Antonio, non credo che me la dia domani mattina, non credo. Tu prova a chiamarmi prima di partire a questo battesimo, a fine mattinata, non lo so, intanto io sono in giro per lavoro, prova a chiamarmi a fine mattinata e ti dico se Antonio mi ha dato risposta, va bene, se me la dà domani sera, vuol dire ci sentiamo domani sera al telefono, mi chiami da Bortigiana, ci sentiamo domani sera. No, io ti sto dicendo domani sera, tu mi dici facciamo per andare a chiamare domani mattina, insomma ti chiamo verso le 6 domani sera, mi dici se ti ha dato risposta o meno. Va bene, d'accordo, la chiamo verso quell'ora e così vediamo cosa mi dice Antonio e te lo dico, dai. E ok, se non si può fare, che è impegnato lunedì, non c'è problema. Tanto non cambia nulla, o domenica mattina, o lunedì, siamo lì. Va bene, d'accordo, beh. Allora ci aggiorniamo domani sera. Attendo le risposte di Antonio e poi ti faccio sapere. Ok. Ciao a tutti, buonanotte. Avanti Antonio. Via, ciao Cole, buonanotte, buon riposo, buon tutto. E ci aggiorniamo tutta domani pomeriggio, io domani lavoro, te l'ho detto, domani mattina lavoro, rientro domani pomeriggio, però la radio ti farò sapere, dai, con quanto per noi, ci sentiremo per radio o per telefono, ci sentiremo, così ti do la conferma per domenica mattina, che sono libero, scendiamo e facciamo tutte le cose. D'accordo, dai, non ti trattengo più di tanto. Ciao, buonanotte Claudio, e ci aggiorniamo tutta domani. Ciao, ciao. Ok, d'accordo. Se ti trattieni, buon proseguimento e ci sentiamo domani. Ciao, Mario, ciao a tutti, buonanotte. Ciao, Claudio, buonanotte. Tanto perché domani mattina alle 4 si fa il lavoro, dai. Va bene, Mario, ciao, buonanotte a tutti. Salutami Antonio, dai, buonanotte. Ciao, Claudio. Ciao. E intanto ti saluto Mario e ci aggiorniamo domani. Ciao, buonanotte. L'avvocato Bulbi va il giorno, va. Ti sento con la maglia tanto. Sì, sono stanco, infatti. Salutami a Mauro, dai. Farò il possibile per essere libero domenica, dai. Vediamo un po', dai. E anche per quello voglio fare questa cosa, in modo che poi ci sentiamo bene tutti quanti, dai. Ok, ciao Antonio e Prescimini, d'accordo. Antonio farà di tutto per essere disponibile, ma ok. D'accordo, ciao, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte, ciao.